Il terzo anello, ad alta voce, La montagna incantata di Thomas Mann. Hans Castorp aveva temuto di non sentire la sveglia, poiché era stato stanchissimo. Invece era in piedi prima del necessario ed ebbe fin troppo tempo per soddisfare ampiamente le sue consuetudini mattutine di raffinata civiltà, fra le quali erano di somma importanza una vaschetta di gomma, nonché una ciotola di legno con sapone verde alla lavanda e il relativo pennello da barba, e per accompagnare alla pulizia e alla cura del corpo il compito di disfare il bagaglio e di sistemare la sua roba. Mentre si passava la pialla argentata sulle guance coperte di schiuma fragrante, ricordò i suoi sogni confusi e con un indulgente sorriso, col senso di superiorità dell'uomo che si fa la barba alla luce diurna della ragionevolezza, scosse la testa a tutte quelle sciocchezze. Non che si sentisse molto riposato, ma fresco era, come il nuovo giorno. Mentre si asciugava le mani, uscì, le guance incipriate, in mutande di filo di Scozia e pantofole di marocchino rosso, sul balcone, che era unico, ma suddiviso ad ogni camera da tramezzi di vetro opaco, i quali non arrivavano fino alla ringhiera. Da qualche parte si faceva musica mattutina, forse in quel medesimo albergo dove c'era stato un concerto la sera prima. Accordi corali arrivavano smorzati. Dopo un intervallo si udì una marcia, e Castorp, che era appassionato di musica, perché gli faceva un effetto simile a quello del porter a colazione, cioè profondo e calmante, tale da stordire e suadere ad appisolarsi, ascoltò con piacere, la testa reclinata su una spalla, a bocca aperta e con gli occhi leggermente arrossati. Ma nello stesso tempo afferrò anche un'altra cosa con l'udito, rumori che provenivano dalla stanza attigua a sinistra, dalla camera, secondo le indicazioni di Joachim, dei coniugi russi. Rumori che a loro volta non si accordavano alla mattina fresca e serena, ma pareva piuttosto che la insozzassero con qualcosa di viscoso. Ricordò che già la sera precedente aveva avvertito rumori simili, ma la stanchezza gli aveva impedito di prestarvi attenzione. Era un lottare, ridacchiare, ansimare, la cui natura scabrosa non poté a lungo rimanere nascosta al giovane, benché sulle prime si sforzasse bonariamente di darne un'interpretazione ingenua. La sua bonarietà si sarebbe potuto chiamarla anche con altri nomi, per esempio con quello un po' insipido di purezza d'anima, o quello serio e bello di pudore, o quelli avvilenti di disgusto del vero e ipocrisia, o persino quello di timidezza mistica e religiosa. C'era un poco di tutto ciò nel contegno di Castorp verso i rumori della camera attigua, e in termini fisionomici esso si palesò in un costumato accigliamento del viso, come se egli non dovesse né volesse saperne di quei rumori. Un'espressione di morigeratezza, che non era del tutto originale, che egli però assumeva in determinate occasioni. Con quell'espressione, dunque, si ritirò dal balcone nella camera, per non continuare a sorprendere fatti che a lui sembravano seri, anzi impressionanti, benché si manifestassero con risate. Nella camera però si udiva anche meglio il tramestio di là dalla parete. Era, o sembrava, una caccia intorno ai mobili. Una sedia fu rovesciata, si faceva ad acchiapparsi, si udivano schiocchi e baci. E ora per giunta la scena invisibile era accompagnata dalle lontane note di un valzer, dalle melodiche consunte frasi di una canzone popolare. Castorp, in piedi con la salvetta fra le mani, ascoltava controvoglia. A un tratto arrossì sotto la cipria, perché il momento chiaramente atteso era giunto e il giuoco, senz'ombra di dubbio, era passato alla fase animalesca. E qui Hans Castorp si meravigliò, vedendo che il rossore salitogli poco prima alle guance rase di fresco non si dileguava, o almeno il senso di calore che lo aveva accompagnato persisteva, e non era nient'altro che quel caldo secco in viso che lo aveva infastidito la sera precedente, e dopo essere scomparso nel sonno, ora, in quest'occasione, si era rifatto sentire. Ciò non contribuì a renderlo ben disposto verso la coppia vicina. Sporgendo le labbra, mormorò invece contro di loro un epiteto assai sprezzante e commise poi l'errore di rinfrescarsi ancora una volta il viso con l'acqua, aggravando notevolmente il malanno. Perciò era di malumore incerto quando rispose a suo cugino che l'aveva chiamato bussando alla parete, e vedendo entrare Joachim non si può dire che desse un'impressione di freschezza e letizia mattutina. «Buongiorno», salutò Joachim. «Questa sarebbe la tua prima notte quassù. Soddisfatto?» Era pronto per uscire in abito sportivo, scarpe robuste ben lavorate, e sul braccio portava l'Ulster, nella cui tasca laterale si vedeva il rilievo della bottiglia piatta. Anche ora era senza cappello. «Grazie», rispose Castorp. «Non c'è male. Non voglio però dare un giudizio. Ho fatto sogni confusi. E poi questa casa ha il difetto che si sente tutto. È un po' seccante. Chi è quella donna in nero là fuori in giardino?» Joachim capì subito a chi alludeva. «Oh, è tu le deux», disse. «Qui la chiamano tutti così, perché è la sola cosa che la si sente dire. Sai, è messicana, non sa una parola di tedesco e quasi nulla di francese, soltanto qualche parola. È qui da 5 settimane, presso il figlio maggiore. Un caso disperato, che arriverà presto alla fine. Prima che mi dimentichi», esclamò un tratto Castorpe con improvvisa premura, «a quella signora in giardino puoi presentarmi finché vuoi, non ho niente in contrario. Mi dica pure tous les deux, non mi importa. Ormai sono preparato, capisco cosa vuol dire e saprò fare una faccia di circostanza. Ma non desidero essere presentato ai coniugi russi, hai inteso? Non ne voglio sapere. Sono persone troppo maleducate. E se dovrò stare 3 settimane vicino a loro e non si è potuto fare diversamente, non li voglio conoscere. È un mio diritto, sia ben chiaro che non voglio». «Capisco», rispose Joachim. «Tanto ti hanno disturbato. Sì, sono, dirò così, barbari. Incivili, insomma, te l'avevo già detto. Lui viene sempre a tavola con una casacca di pelle e logora, che bisogna vedere. Mi meraviglio che Behrens non intervenga. E lei non è proprio elegantissima, nonostante il cappellino piumato. Ma puoi stare tranquillo, stanno lontano da noi, alla tavola dei russi incolti, poiché c'è anche una tavola dei russi a modo, alla quale si siedono soltanto russi più distinti. Ed è difficile che tu li incontri, anche volendo. In genere non è agevole far conoscenze, non fosse altro perché fra gli ospiti ci sono molti stranieri. Io stesso, pur essendo qui da tanto tempo, ne conosco ben pochi di persona. Dei due, chi è il malato?» domandò Castorp. «Lui o lei? Lui, credo. Sì, soltanto lui, rispose Joachim, visibilmente distratto, mentre appendevano il soprabito agli attaccapanni davanti alla sala da pranzo. Poi entrarono nella sala luminosa dalla volta piatta, dove si udivano incrociarsi di voci, un acciottolio di stoviglie, e le cameriere accorrevano con bricchi fumanti. Nella sala da pranzo c'erano 7 tavole, la maggior parte disposte nel senso della lunghezza, soltanto 2 per traverso. Erano tavole piuttosto grandi, per 10 persone ciascuna, anche se i coperti non erano dappertutto al completo. Fatti soltanto pochi passi di sbieco nella sala, Castorp si trovò già al suo posto, apparecchiato sul lato breve della tavola, al centro, davanti, fra le 2 tavole messe per traverso. In piedi, dietro la sua sedia, Hans Castorp si inchinò rigido e cortese verso i commensali, ai quali Joachim lo presentò cerimoniosamente. Egli quasi non li vide, e meno ancora ne afferrò i nomi. Gli si impresse soltanto il nome e la figura della signora Storr, e notò che aveva il viso rosso e i capelli unti di un biondo cenere. Che facesse quelle tali topiche era credibile, bastava vedere l'espressione caparbia e ignorante della sua faccia. Poi si sedette e avvertì con piacere che la prima colazione era considerata un pasto serio. C'erano coppe di marmellata e miele, ciotole di riso cotto nel latte e di pappa d'avena, vassoi con uova strapazzate e carne fredda, burro a dovizia. Uno sollevò la campana di vetro sopra un lacrimante formaggio svizzero per tagliarsene una fetta, e nel mezzo della tavola c'era anche una fruttiera con frutta fresca e secca. Una cameriera in bianco e nero domandò a Castorp che cosa preferisse, cacao, caffè o tè. Era piccola come una bimba, col viso lungo e non più giovane. Una nana, come egli notò con spavento. Guardò suo cugino, ma poiché questi si limitò a contrarre con indifferenza le spalle e le sopracciglia, come per dire, e dunque, si adattò alle circostanze. Ordinò con particolare gentilezza il tè, perché era stata una nana a interrogarlo, e si mise a mangiare riso nel latte con zucchero e cannella, mentre girava lo sguardo sugli altri cibi che desiderava gustare, sugli ospiti seduti alle 7 tavole, colleghi e compagni di sventura di Joachim, i quali erano tutti internamente malati e facevano colazione chiacchierando. Alla sua destra, Castorp aveva una donna modesta in nero, con un po' di peluria sulla pelle e le guance arrossate e opache, nella quale gli parve di ravvisare una specie di cucitrice o sarta aggiornata, probabilmente perché prendeva soltanto caffè con panini imburrati, e perché egli aveva sempre collegato l'idea della sarta aggiornata con quella del caffè e dei panini col burro. Alla sua sinistra stava una signorina inglese, anch'essa già avanti negli anni, molto brutta, con dita secche e freddolose, che leggeva lettere da casa in scrittura rotondeggiante e intanto beveva un tè color sangue. Accanto a lei seguivano Joachim e la signora Storr in camicetta di lana scozzese. Mentre mangiava teneva la sinistra a pugno vicino alla guancia e si vedeva lo sforzo che faceva per assumere parlando un'espressione fine e civile, ritraendo il labbro superiore dai lunghi e sottili denti da lepre. Un giovanotto coi baffi radi e il viso di chi abbia in bocca un cattivo sapore andò a sedersi accanto a lei e mangiò in perfetto silenzio. Entrato quando Castor era già seduto, abbassò, ancora camminando e senza guardar nessuno, il mento sul petto in segno di saluto e si accomodò, rifiutando nettamente col suo contegno di farsi presentare al nuovo venuto. Castorp aveva avuto qualche timore di scene paurose, ma si vide deluso. Tutto si svolgeva allegramente. Non si aveva l'impressione di trovarsi in un luogo di dolore. Giovani abbronzati dell'uno e dell'altro sesso entravano canterellando, parlavano con le cameriere e attaccavano la colazione con formidabile appetito. I più erano allegri, senza particolare motivo probabilmente, soltanto perché non avevano apprensioni immediate e perché erano in molti. Certo però alcuni stavano a tavola con la testa fra le mani, a guardare fisso davanti a sé. Gli altri lasciavano che guardassero fisso e non si curavano di loro. A un tratto però Castor, seccato e offeso, ebbe un guizzo convulso. Una porta si era chiusa di colpo, la porta a sinistra che dava direttamente nell'atrio. Qualcuno l'aveva chiusa con forza o sbattuta dietro di sé, con un fracasso che Castor aveva sempre odiato a morte e non poteva soffrire. Quell'odio risaliva forse all'educazione avuta, o forse a un'innata idiosincrasia. Fatto è che detestava il rumore di una porta sbattuta e sarebbe stato capace di picchiare chi se ne rendeva colpevole. In questo caso la porta era tutta incastri di vetro, che contribuirono a rafforzare il colpo. Un tintinnio fragoroso. Vergogna, pensò Castorp furibondo. Chi sarà questo maleducato? Ma siccome in quel momento la cucitrice gli rivolgeva la parola, non ebbe il tempo di accertare chi fosse il malfattore, ma aveva le sopracciglia corrugate e mentre rispondeva alla cucitrice, il viso dolorosamente stirato. Thank you. Joachim domandò se i dottori erano già passati. «Sì, avevano fatto il primo giro», gli rispose qualcuno, «ed erano usciti dalla sala proprio quando i due cugini entravano. Era ora quindi di andare e non indugiare», osservò Joachim. Un momento per la presentazione si sarebbe trovato durante la giornata. Ma sulla soglia per poco non cozzavano contro il consigliere Behrens, che entrava, a passo veloce, seguito dal dottor Krokowski. «Oi là! Attenzione, signori!» esclamò Behrens. «Ci potevano andare di mezzo i calli per entrambe le parti!» «Ah, è lei dunque!» disse a Castorp, che Joachim presentò accostando i tacchi. «Piacere!» e porse al giovane la mano, larga come una pala. Era un uomo ossuto, quasi tre teste più alto di Krokowski. I capelli tutti bianchi, la nuca sporgente, grandi occhi azzurri prominenti, soffusi di sangue, lacrimosi, il naso camuso e i corti baffetti di sghembo, in seguito a una piega unilaterale del labbro superiore. Ciò che Joachim aveva detto delle sue guance era proprio vero. Erano blu, sicché la testa si presentava molto colorita rispetto al bianco camice di chirurgo, un camiciotto con cintura che gli scendeva fino alle ginocchia, sicché sotto si vedevano i calzoni a righe e due piedi enormi, in stivali gialli, con le gacce un po' logori. Anche il dottor Krokowski era in abito professionale, ma il suo camice era nero, di alpaca, a casacca, con elastici ai polsi, e davano un poco risalto al suo pallore. Faceva soltanto la parte dell'assistente, senza salutare a sua volta i presenti, ma una piega critica delle labbra rivelava che quel suo posto in sottordine gli faceva una strana impressione. «Cugini?» domandò il consigliere aulico, agitando la mano fra l'uno e l'altro e guardando i giovani di sotto in su con quei suoi occhi azzurri soffusi di sangue. «Vuole indossare anche lui l'onorata?» chiese Joachim con un cenno del capo verso Castorp. «E Dio guardi, vero? Ho visto subito», e ora si rivolse direttamente a Hans, «che lei ha un non so che di borghese, un certo modo, senza il trambusto d'armi di questo caporale. Lei sarebbe un paziente migliore di lui, scommetterei. Sa, io noto subito chi può essere un paziente come si deve. Ci vuol talento. Talento ci vuole per ogni cosa. E questo mirmidone qui non ne ha nemmeno un briciolo. Per le esercitazioni, forse, non so. Certo non per fare il malato. Ma lo sa che vuol sempre andar via. Sempre se ne vuole andare. Mi tira e mi tormenta e non vede l'ora di correre laggiù a farsi squartare. Che zelo esagerato. Neanche mezzo annetto ci vuol regalare. Eppure si sta molto bene qui da noi. Dica lei, Zimsen, se non si sta bene qui. Beh, suo cugino ci saprà apprezzare meglio. Saprà divertirsi. Le donne non mancano. Qui ne abbiamo di graziosissime. Almeno di fuori parecchie sono pittoresche. Ma lei dovrebbe acquistare un po' di colore, capisce? Altrimenti ci scapita con le signore. Verde è bensì l'aurea pianta della vita, ma in viso il verde non è proprio il colore più adatto. Anemia totale, naturalmente». E così dicendo si avvicinò senz'altro a Castorp e gli abbassò una palpebra con l'indice e il medio. «S'intende, anemia totale, come ho detto. La vuol sapere? Non ha avuto una cattiva idea abbandonando a se stessa la sua Amburgo per qualche tempo. È un'istituzione profittevole quell'Amburgo. Ci ha sempre fornito un discreto contingente con la sua gaia e umida meteorologia. Ma se in quest'occasione permette che le dia un consiglio non impegnativo, del tutto sine pecunia, intendiamoci, faccia fintanto che è qui esattamente tutto quanto fa suo cugino. Nel caso suo non si può far nulla di più astuto che vivere qualche tempo come uno che ha una leggera tubercolosi polmonare e metter su un po' d'albumina. Qui da noi il ricambio di albumina è una strana faccenda. Benché la combustione generale sia maggiore, il corpo, ciò nonostante, acquista in albumina. Beh, e lei, Zimsen, ha dormito bene? Benissimo, vero? Via dunque ora per la passeggiata all'aria aperta, ma non più di mezz'ora. E poi, il sigaro di mercurio in bocca. E notare tutto, mi raccomando, Zimsen, ordine superiore, con coscienza. Sabato voglio vedere la curva. Suo cugino misuri anche lui. Misurare non può far male. Buongiorno, signori. Buon divertimento. Buongiorno. Buongiorno. E il dottor Krakowski gli si accodò, mentre filava a vele spiegate, le braccia ciondoloni, le palme delle mani volte all'indietro, chiedendo a destra e a sinistra se avevano dormito bene e ricevendo da tutti risposta affermativa. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.